Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Maurizio Melis. Questa sera partiamo da una domanda: è possibile migliorare l'isolamento delle superfici vetrate senza cambiare la superficie vetrata stessa? Per esempio, si può migliorare l'isolamento di un serramento senza sostituirlo, oppure evitare che una bella vetrata trasformi la stanza in un forno quando il sole la investe magari d'estate? La risposta evidentemente sarà sì, e questo grazie a delle pellicole molto evolute in grado di controllare il flusso di luce e calore attraverso le superfici trasparenti. Ne parliamo con Renato Gallo, che è membro del Working Group 18, il gruppo di studio della Commissione Europea che lavora appunto sulle cosiddette pellicole a controllo solare. Buonasera Gallo, benvenuto. Buonasera a lei Melis, buonasera. Allora, parliamo di pellicole trasparenti che proprio si applicano sui vetri, no? Quelli esistenti. Che funzioni svolgono? Come fanno a contribuire in qualche modo all'efficienza energetica? Beh, con diversi aspetti. Diciamo, intanto il concetto è quello di un sottile film adesivo che si incolla perfettamente sulla superficie esistente del vetro. Ora entrano in gioco quali sono gli scopi. Lei saprà, e anche gli ascoltatori sapranno, che dal sole ci arriva una serie di radiazioni, alcune certo. delle quali belle e simpatiche, come la luce, altre come l'ultravioletto, diciamo da tenere sotto controllo, perché una piccola porzione di ultravioletto può anche far piacere sulla pelle per abbronzarsi. Sì. Gli UVB, gli UVC, direi è meglio che fanno meno piacere alla pelle, ma fanno meno piacere anche ai divani quando ci cadono sopra, che dopo un po' li schiariscono. Insomma, la luce del sole ha anche questi effetti, no? Sui pavimenti. Ecco, quindi. E qui abbiamo parlato di ultravioletto, abbiamo parlato di luce, e poi abbiamo l'altra parte della radiazione che viene chiamata infrarossa, certo. che è quella porzione di radiazione che arriva dal sole che si sente sulla pelle come effetto calore. Calore. Quando sorge il sole ce ne accorgiamo subito, sentiamo proprio l'ondata di calore. Sì, e il nostro corpo la percepisce attraverso i sensori che abbiamo sulla pelle. A questo punto la pellicola cosa fa? Possiamo avere un film, per esempio, chiarissimo, che blocca solo l'ultravioletto. Poi cominciamo ad avere qualche problema perché la luce è troppa in quell'ambiente, allora a questo punto mi scelgo un prodotto che insieme all'ultravioletto blocca, o filtra meglio, una porzione di luce che certo. possiamo decidere, un 10, un 20, un 30, un 50% e via a salire. Dopodiché entriamo a giocare col calore. A questo punto abbiamo un equilibrio che è doppio: calore che entra, quello solare, o calore che esce, che è il calore invernale che produciamo con energia che costa. Certo. Per cui gli aspetti sono due. Allora, se le superfici vetrate sono in condizione, diciamo, assolata, uno dei fenomeni da tenere sotto controllo è anche l'irraggiamento. Fare in maniera che entri nella stanza, nel soggiorno, nei sottotetti, quella quantità di calore che possiamo ritenere accettabile, ma non di più, perché mi crea situazioni di disagio. Ecco, ricordiamo che il surriscaldamento dovuto a una vetrata su un locale d'estate può raggiungere 10 gradi, quindi insomma non stiamo parlando di un fenomeno da poco, no? Sì, anche tenendo conto che molti non lo sanno, che il costo energetico di raffrescare, quindi molto, condizionamento, certo. costa generalmente 2,5 volte, certo. 3 volte il costo per riscaldare. Per riscaldare. Ecco, queste pellicole di cui parlava hanno anche tutte queste proprietà insieme, cioè ci sono delle pellicole che fanno praticamente passare solo la luce e tengono fuori sia gli ultravioletti che gli infrarossi, vero? Sì, arriviamo ad avere addirittura dei film con caratteristiche basso emissive, per cui a questo punto riusciamo a contribuire anche al risparmio energetico invernale. Mi sembra che questo sia un oggetto molto interessante in quei casi in cui ci sono dei serramenti, per esempio, o delle superfici vetrate tutto sommato abbastanza valide, diciamo così, decenti, per cui magari sostituire il serramento è una spesa notevole, si hanno dei dubbi sul fatto che possa avere senso, allora forse una pellicola come questa può dare un contributo. Quanto però può contribuire? Beh, dipende dal punto di vista. Allora, se parliamo di situazione estiva, quindi di superfici soleggiate, lì il contributo diventa importante, perché noi riusciamo a tenere fuori fino al 70, anche 80% dell'energia solare in arrivo, e quindi lì il contributo è estremamente evidente. Sì. Se invece rovesciamo la problematica e parliamo, abbiamo, esatto, di isolamento invernale, ecco, quindi superficie disperdente in questo caso, e quindi l'interesse è a tenere dentro il caldo, ecco che un film basso emissivo con una tecnologia sofisticatissima, perché in pochi micron di spessore riesce a fornire uno schermo che mi ricaccia indietro qualcosa come un 30-35% di una dispersione termica, che credo è un terzo che non fa male poter tenere dentro senza cambiare serramento. Quindi rispetto a un serramento che non ha questa tecnologia basso emissiva, l'aggiunta di questa pellicola può migliorare di un 30% la tenuta, diciamo, alle dispersioni termiche. Senta, in 30 secondi mi spiega più o meno come nascono questi oggetti? Ci hanno anche 5, 6, 7 strati in pochi decimi, sì, di millimetro, vero? Sì, sostanzialmente oserei dire sotto del decimo di millimetro, e quindi ininfluente da un punto di vista del peso, della struttura e tutto quanto. In questo piccolo spessore ci sono uno o più sottilissimi strati di film che, sì, svolgono funzioni varie. Uno strato di film, per esempio, può proteggere all'ultravioletto, il secondo può avere un deposito di ossidi metallici per riflettere l'infrarosso, sì, un terzo può avere un colore, poi un ultimo strato che ricopre il tutto. Per finire, un adesivo capace, certo, di resistere nel tempo, e anche questa non è una sciocchezza, perché deve essere molto trasparente, nitido, non deve portare distorsioni e deve resistere per 10, 15 e anche 20 anni di vita, che non è poco. Insomma, tantissima tecnologia in uno spessore quasi insomma impercettibile. Grazie Renato Gallo. Grazie a lei Melis, è stato un piacere. Ci fermiamo qui, domani con il responsabile Green Economy del Partito Democratico cercheremo di capire qual è la loro posizione sul decreto legislativo rinnovabili e se hanno una strategia alternativa a quella proposta dal governo. E oggi 17 marzo, lasciate che vi saluti così. Viva l'Italia!